si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati alla puntata di domenica di Si può fare, cronache da un paese migliore. Ebbene, prima di tutto una notizia: è chiuso ufficialmente il concorso di Si può fare, cioè ci sono ancora alcuni giorni, insomma si può votare fino a tutta la settimana prossima, però quello che conta è che nella puntata in diretta di sabato prossimo 9 marzo vi chiederemo di intervenire in diretta mandandoci un sms con la mail con la quale vi siete registrati per votare il concorso o la mail con la quale vi registrerete ancora in questi giorni che ci sono a disposizione, e così potrete partecipare all'estrazione, insomma alla vittoria del premio, un soggiorno sostenibile offerto da EquoTube. Vi ricordo le categorie che si possono votare sul sito, le storie migliori di questo primo anno di programma che vi andiamo a riproporre. Chi vince ha la possibilità di tornare in diretta a raccontare l'evoluzione della propria storia, invece voi ascoltatori che votate vincete appunto un soggiorno equo e sostenibile. Le categorie sono queste: imprese, idee imprenditoriali per un paese migliore, poi le persone, vite straordinarie di italiani ordinari, istituzioni, la fantasia al potere, e poi le iniziative di associazioni, piccole idee e grande entusiasmo. Quindi c'è ancora qualche giorno di tempo, andate sull'home page del sito www.radio24.it e partecipate. Adesso iniziamo subito con qualche notizia della settimana. Così, giusto per entrare un po' nel clima, mobilità sostenibile. A Parma arrivano 10 nuove, sono le prime stazioni per la ricarica dell'auto elettrica. Insomma, se ne parla da tempo in Italia, qualcuno si sta muovendo, qualche città sta facendo qualcosa. Ebbene, il Comune ha firmato un accordo con la Regione, l'Enel, il gruppo Iren e altri partner, che prevedono la possibilità di trovare in città 10 stazioni di rifornimento elettrico. Chi potrà usufruirne troverà a disposizione vari tipi di contratto a seconda di chi fornisce, insomma, il contratto di energia elettrica, e insomma si potrà pagare direttamente in bolletta, un modo efficace ed efficiente per diffondere le auto elettriche e quindi inquinare di meno in città. Un'altra notizia che ha a che fare con l'inquinamento viene dalla Toscana. Questa volta la buona notizia è in una ricerca, in uno studio che è stato fatto dal climatologo Giampiero Maracchi, insomma è conosciuto. Dice: pensate, basterebbe in Toscana che ci fossero 2 gradi in meno di riscaldamento in tutte le case, insomma in tutti i palazzi, per far stare la Toscana all'interno dei parametri di Kyoto. Insomma, non è molto, non è uno sforzo grandissimo. 2 gradi in meno, basta mettersi il maglione invece di stare in camicia a maniche corte in inverno, come accade normalmente nelle case e negli uffici, per risparmiare chissà quanto in termini di energia. Insomma, basta poi farlo, perché sennò sono solo chiacchiere. L'altra buona notizia viene da San Benedetto del Tronto. Per rilanciare l'economia in questa regione si sta facendo qualcosa, uno stanziamento di 100.000 euro per le imprese che assumono personale. Parliamo di bar, ristoranti, hotel soprattutto, quindi si punta un po' nel settore dell'accoglienza. Allora, se siete nella zona di San Benedetto o comunque nella regione Marche, perché il finanziamento è delle Marche, sappiate che c'è questa possibilità di aderire a questa linea di finanziamento che incentiva le imprese che vogliono assumere. Adesso andiamo a Napoli, perché partiamo da qua questa settimana. Abbiamo vissuto il ritorno di Maradona a Napoli, un amore indissolubile quello tra lui e la città partenopea, e insomma ci sono sempre spunti di discussione. Son venuto da lontano, qui è casa mia. Già te conoscevo Napoli, seconda mamma mia. Grazie di chiamare mio figlio. Il messaggio ai giovani che devono fare sport, allontanarsi dalla droga. Io ho vissuto dei momenti bruttissimi. I bambini, i ragazzi, i napoletani devono pensare che la vita non è in un solo giorno, che la vita è lunga. Dobbiamo ringraziare e stare bene ogni giorno. È insomma, questo era Maradona nel suo intervento che, insomma, avete sentito, cioè, su tutti i giornali, il suo ritorno a Napoli. In realtà è venuto per la questione dei suoi guai col fisco. I legali dicono che ha risolto tutto, in realtà non è proprio così chiaro. È il fisco italiano che chiedeva 40 milioni di euro a Diego Armando Maradona, il quale però porta sempre messaggi di speranza per i tifosi, per una città che è innamorata in maniera, insomma, abbiamo detto, un amore indissolubile. Allora, però, siccome era atteso, tra l'altro, a Scampia, quartiere difficile, no? Tra le vele di Scampia, per parlare con i ragazzi della scuola calcio di Scampia, poi qualcosa, insomma, non è andato nel verso giusto e questo incontro non c'è stato. Noi abbiamo raggiunto e convocato in trasmissione Carlo Sagliocco, che è vicepresidente della scuola calcio Arci Scampia, che sono quelli che dovevano parlare con Maradona. Buongiorno, prima di tutto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Vabbè, questo incontro poi non c'è stato, no? Voi vi eravate un po' preparati per parlare, soprattutto credo, dell'aspetto sportivo di tutta questa vicenda. Come mai non è venuto, prima di tutto, Maradona? Noi pensiamo che non sia venuto perché era in concomitanza con le elezioni. Infatti la gente è venuta sul nostro centro sportivo. Vabbè, ma lui però... Che c'è... Ah, perché Pisani, forse il suo avvocato, era candidato. Era candidato, forse era impegnato e quindi... Però un giro lui se l'è fatto in macchina. Sì, questo è lo sappiamo. È stato lì alle vele, ha visto dei campetti dove giocavano ragazzini così. E tra l'altro ha fatto anche un commento sul quale adesso torneremo, perché anche questo vi riguarda. Cosa vi eravate preparati invece di discutere con lui, insomma, di calcio? Ma ai ragazzi, che sapevano sicuramente anche la notizia che lui era lì per questi guai col fisco, avevate detto qualcosa oppure avevate, diciamo, un po' messo da parte l'argomento? Noi abbiamo avuto la fortuna di preparare un incontro con Maradona facendo una proiezione un po' delle sue capacità calcistiche, e poi c'è stata una conferenza stampa sulla sua problematica con il fisco, però i ragazzi ovviamente sono attratti da Maradona soprattutto per le sue capacità calcistiche, non però certo. Non interessano quelle altre cose. Però, insomma, era giusto anche dire un po' quali erano le carte sul tavolo, questo sì. Certo, questo sì è stato fatto, sono venuti ex giocatori del Napoli dell'epoca, è venuto il suo avvocato Pisani, altri personaggi sia della tifoseria napoletana che del giornalismo, e si è fatta questa conferenza stampa. Però i ragazzi hanno visto soprattutto il filmato di quando lui giocava a calcio, quello è interessato moltissimo. Poi quando è iniziata la discussione sull'Equitalia e le altre cose, devo dire la verità, non erano molto interessati, sono rimasti solo gli adulti. Perché quello che a noi ci interessa è proprio questo, siccome appunto Maradona doveva venire lì da voi, poi dopo ha detto anche è uno schifo, ha detto che i ragazzini debbano giocare in campi da calcio così, perché stava facendo un giro per Napoli, per Scampia, tra le vele, eccetera, chissà che cosa ha visto. Voi invece siete un'eccellenza in quel quartiere ed è proprio questo che vi vogliamo chiedere. Voi siete una presenza da tanti anni, un campo di calcio ce l'avete, non era il vostro quello che ha visto Maradona, no? Assolutamente, noi siamo contenti che ci date l'occasione ogni tanto di parlare voi un'altra faccia di Scampia rispetto a quella che esce sempre fuori. Scampia è un quartiere con oltre 60.000 abitanti. Anche noi all'inizio, nel 1986, quando è nata la nostra scuola calcio, con circa 17-18 ragazzi, abbiamo giocato sui campetti così che erano a disposizione, e forse erano anche un poco meglio dei campi che ha visto Maradona, che quelli erano campetti proprio per ragazzini che giocavano a calcio sotto casa, quelli ha visto Maradona. Però se lui girava un po' per Scampia avrebbe senz'altro visto il nostro centro, lo stadio che ci sta oggi a Scampia. Oggi Scampia è molto di uno stadio dove possono salire su 3.000 spettatori. E quindi lui queste cose qua... Io ho visto la foto, tra l'altro, sulla vostra pagina Facebook, tra l'altro, ma anche sul sito, e non so se è cambiato qualcosa, però dalla foto il campo sembra un campo perfetto, quindi sì, Maradona si è sbagliato. Cioè, se fosse arrivato fin da voi avrebbe visto un altro mondo e avrebbe visto proprio il film che doveva vedere. Si può fare cronache da un paese migliore. Insomma, con Carlo Sagliocco della scuola calcio Arci Scampia, nella settimana in cui Maradona è tornato a Napoli per parlare dei suoi guai col fisco, per dire che è tutto risolto, anche se in realtà non è proprio così, poi doveva andare da loro a parlare di calcio, i ragazzini che non aspettavano altro, questo incontro non c'è stato, purtroppo, peccato. Maradona tra l'altro non ha visto la scuola calcio di Scampia di cui stiamo parlando, che è un posto d'eccellenza, ha visto altri campetti un po' spelacchiati e ha fatto qualche commento dicendo, beh, insomma, è uno schifo che i ragazzini, voleva mietere un po' di consensi probabilmente, anche perché si parla di lui, Carlo, come del prossimo allenatore del Napoli possibile. Tra l'altro so che la città si sta dividendo, no? Da quelli che dicono sì, come no, porte aperte, altri che dicono ma meglio non ripetere, magari in negativo, quello che è stato un passato meraviglioso. Lei, Carlo, sì, che ne pensa? Lui ha fatto delle affermazioni sul futuro di Mazzarri, proponendolo alla Roma, all'Inter, secondo me lasciandosi qualche spazio, però io penso che Maradona sia stato uno, forse il giocatore più grande che abbia mai avuto, almeno che ho visto io giocare, però come allenatore ho qualche dubbio. Quindi Carlo è tra gli scettici, insomma, lo mettiamo tra i napoletani scettici sul ritorno di Maradona. Ci vogliono altre qualità per gestire una squadra, gestire un ambiente, lo spogliatoio, i ragazzi. Ci vuole un altro tipo di qualità. E voi ne sapete qualcosa, perché da anni gestite una scuola calcio a Scampia, un quartiere difficile, e oggi ancora c'è questa attrattiva, questa forza da parte dello sport nei confronti dei ragazzi delle periferie, Carlo? Io penso che i nostri, lo sport del calcio sia lo sport più adatto anche ai centri sociali che troviamo qui a Scampia, perché non costa molto, si può praticare facilmente e quindi vengono attratti. Il nostro sogno è stato sempre quello di avere un centro dove non solo fare calcio, ma parlare con i ragazzi, crescerli insieme a noi, spiegargli come vanno le cose, fargli conoscere la città, fargli conoscere le cose anche positive che ha Napoli, non solo quelle negative, cercare di farli vivere in un ambiente normale. Ecco, questo noi cerchiamo qui a Scampia, vivere in un ambiente normale. Invece noi ci sono sempre momenti, Carlo, lei parla di un ambiente normale, ma io sento delle urla dietro di voi, non è che sta succedendo qualcosa di... mia nipote con ecco, tutto regolare. No, tutto regolare. Quindi noi questo spieghiamo ai ragazzi, sì. Cioè un ragazzino che la mattina si sveglia, va a scuola, vede il papà che va al lavoro, che è il grosso problema che abbiamo tutti, penso in Europa, in Italia e soprattutto a Scampia. Scampia, prima, io sto dal 1963 che abito qua, ho lavorato all'Ital Feeder di Bagnoli e le posso garantire che la mattina andavamo a lavorare i pullman erano pieni. E adesso invece non è più così. Adesso non è più così, quindi il grosso problema non è tanto la delinquenza, perché qui 400, 500, anche 1000 delinquenti che ci sono non possono rappresentare una cittadinanza oltre 60.000 persone. Quindi il problema grosso che abbiamo è proprio quello, è del lavoro. Noi diamo quello che sappiamo fare, noi abbiamo giocato un po' a calcio. Poi quello che insomma ci interessava anche a noi di sottolineare, no? Il messaggio dello sport è importante. Tra l'altro so che in autunno la RAI proporrà questa fiction sulla palestra di Maddaloni, che è un altro punto di riferimento per lo sport, sempre a Scampia, ed è una cosa insomma grossa. Voi continuate a fare questo lavoro, che dire? Noi praticamente oggi abbiamo 560 ragazzi. Io, a proposito delle imprese che riescono ad avere, sono positive. Noi ultimamente abbiamo fatto un carnevale, no? Sì. Il tema era o storto o morti. In napoletano vuol dire o così si riescono a fare le cose. Noi o storto o morti siamo riusciti in 25 anni ad avere una struttura che è straordinaria. Un nostro ragazzo, diciamo l'occhiello che abbiamo, un nostro ragazzo, Rosario Esposito alla Rossa, era un ottimo calciatore, ha rinunciato ad andare con il Napoli, ha rinunciato ad andare ad Ascoli, è andato all'università, oggi è uno scrittore e ha scritto la nostra storia in un libro che si intitola Sotto le ali dell'Airone. È una storia straordinaria dove racconta sì la storia della scuola calcio, ma anche i sentimenti di tutti quelli che ci vivono dentro. Beh, insomma, una storia nella storia, straordinaria. Ricordiamo, certo, questo libro e questo, anche il giovane autore, così. Certo, un giovane autore. Ricordiamo il titolo, che me lo sono perso. Sotto le ali dell'Airone. Perfetto. Rosario Esposito della Rossa, Marotta e Caffiero l'editore. Come dalla scuola calcio di Scampia possano uscire non solo dei ragazzi appassionati di calcio, ma anche dei ragazzi appassionati alla vita, diciamolo, anche se può sembrare banale, e dei, insomma, degli scrittori, chissà, magari un futuro talento. Grazie per tutto. Ciao, quello che fate. Voi, Carlo Sagliocco, vicepresidente della scuola calcio di Scampia. Adesso continuiamo a parlare di ragazzi, ma andiamo a scuola. Non importa, sai, ci avevo judo. Ma se serve vi porto i dischi, così potrete ballare i lenti. Ma perché siete così? Io che credevo, io che speravo, parteciperò. Mi autoinviterò dalla festa delle medie. Grazie a Elio e le Storie Tese, Tapparella, questa canzone, così siamo entrati nel clima di come vivono i ragazzi delle scuole medie. perché di loro ancora parliamo e siamo appunto a scuola. Questa volta però il sogno non è più quello di diventare calciatore, ma è quello di diventare imprenditori. Se è possibile, a 13 anni, avere questo sogno, lo chiediamo ad Adriano Marconetto del progetto BizWorld. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Un progetto che sta girando, se abbiamo capito bene, le scuole intanto di Torino, del Piemonte? Sì, abbiamo iniziato qualche mese fa con il progetto pilota in una scuola media di Torino, l'Alvaro Modigliani. Sì. Il pilota è andato molto molto bene, i ragazzi sono rimasti entusiasti, così anche diciamo i professori, e il prossimo passo è quello di portarlo nelle scuole medie di tutta Italia. Ecco, diamo il titolo di questa iniziativa, come la chiamate, che cosa volete fare, così giusto per cominciare a parlarne? È un nome semplice, BizWorld, il mondo del business. Applicato ai ragazzi delle scuole medie. Sì, è un corso che dura 15 ore, interdisciplinare e molto interattivo, è un business game, un gioco attraverso il quale si impara come funziona un'azienda, si crea una startup e la si gestisce. Ecco, ma la prima cosa che mi viene a chiederle è, naturalmente è un progetto che vuole incentivare lo spirito dei ragazzi che sono alle porte, diciamo, dell'adolescenza, poi dovranno decidere cosa fare molti anni dopo, magari si ritroveranno questo ricordo che nasce come un gioco ma che porta dietro dei valori, insomma. Ma c'è questa voglia di diventare dei briatore da parte dei ragazzi? C'è una mitologia dell'imprenditore, oppure a quell'età sono completamente fuori da questo tipo di argomenti? Ma io non ho nulla contro il briatore, ma diciamo che noi cerchiamo in realtà di essere molto più laici, cioè non vogliamo riferirci a un modello particolare. Vabbè, ho detto briatore perché è un po' lo stereotipo poi positivo, negativo, ma insomma sì, dell'imprenditore. C'è stato anche un talent show in televisione. Sì. Sì, quello che BizWorld vuole provare a fare è dare ai ragazzi degli strumenti per capire il mondo che li circonda. Come mai un gelato costa 2 euro anziché 20, per esempio? Come si formano i prezzi? Quali sono le regole base dell'economia? Nelle nostre scuole i ragazzi non imparano nulla di economia. Nulla. Arrivano in quinta superiore e non hanno la più pallida idea del perché le risorse non sono illimitate, del motivo per cui non ci sono pasti gratis. Attraverso questo corso di 15 ore i ragazzi imparano come quali sono le regole base dell'economia, come nasce un'impresa e quali sono i criteri per gestirla, quindi si avvicinano al concetto di costo, di prezzo, di perdita, di profitto. Sì. E soprattutto imparano la regola fondamentale, cioè che le risorse, sia il tempo sia i soldi, non sono illimitate, per cui bisogna imparare da cittadini sì, veri e non da sudditi, bisogna imparare a utilizzarle al meglio. Questa cosa, cioè, lei mi sta dicendo anche un po' sotto traccia forse che è un modo per formare anche dei cittadini un po' più esemplari, forse anche dal punto di vista, non so, del pagamento delle imposte. Cioè voi fate capire che tutto quello che c'è, i beni, le risorse, hanno un'origine, insomma, non sono regalati, quello che faticano a volte i genitori a far comprendere, no, ai ragazzi. Quindi, oltre a questa vena imprenditoriale, è una sorta di educazione civica anche che vi proponete. È esattamente questo, è una sorta di educazione civico-economica che nella nostra testa aiuta i nostri ragazzi, i nostri figli a comprendere meglio il mondo che li circonda e in seguito a fare delle scelte. Noi non vogliamo che questi diventino tutti imprenditori, perché non lo diventeranno, però ci piacerebbe che quando faranno una scelta la possano fare con qualche strumento in più per capire le conseguenze della scelta stessa. Quindi voi vi offrite alle scuole, per cui se ci sta ascoltando in questo momento qualche, non so, un preside o chi gestisce una scuola, un insegnante che è interessato a questa vostra offerta formativa, diciamo, si può creare, come possono fare? Avete un sito, avete dei contatti? Dunque, l'iniziativa nasce in California un po' di anni fa ed è diventata molto, molto famosa negli Stati Uniti. Io pionieristicamente l'ho portata in Italia nei mesi scorsi, ho fatto il pilota e non ho ancora fatto tempo a trasformare tutto questo in un'associazione culturale con il suo sito web, quindi siamo proprio agli albori nel momento pionieristico. Chi è interessato a